cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo là in Sicilia sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera urla il vento, furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare il torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui vent'anni per il nostro domani. Sono morti come venti partigiani. Marino Serri è morto, morto a Frodondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è il sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri è sempre quello stesso che fu con noi montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti e Spagna. Uguale la canzone Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con